Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, what's the secret part? The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera, eccomi qua, Addo qui con voi. Lunedì 19 maggio, sono le 19:11 nel mio universo, perlomeno, scusate il piccolo ritardo, infatti. Questa è Nervature, come ogni lunedì circa alle 19, e, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, a seconda dei casi e delle situazioni. Oggi di cosa parliamo? Oggi in realtà parlo poco, ve lo dico subito, e parliamo di musica. Ebbene, oggi è la, se non mi sbaglio, quarta, credo, puntata di Chiacchiere Melodiche, quindi diciamo un format così, ora senza formalizzarsi, ma insomma non parlo di niente in particolare, ma metto musica che ha a che fare con le piante, o con la terra, o con la natura, insomma, secondo un po' dei casi, e poi magari un pochino la commento, un pochino no. Allora, le altre volte di solito ero accompagnata da qualcuno, ahimè, quest'oggi invece non sono accompagnata da nessuno qui in regia, sono tutta sola, soletta. Quindi, a maggior ragione, vi ricordo il link per accedere al pad. Il pad, che è il foglio di testo condiviso che noi usiamo per chiacchierare con voi, anzi che voi usate soprattutto per chiacchierare con noi in diretta. Quindi il link è direttawombat.vado.li, ma comunque ci potete accedere anche tramite il sito della nostra radio, che è radiowombat.net, dalla sezione contatti. Quindi è molto semplice in realtà. Quindi oggi sono qui a farvi compagnia per un'oretta, direi un'oretta e mezzo. Direi di iniziare subito in realtà con una cosa molto molto smooth, che poi vi racconterò un po' che cos'è. Ed eccomi qua che ritorno ai microfoni. Allora, quello che avete sentito adesso è una... penso sia un'etichetta musicale che si chiama Micelic, quindi da Micelio appunto, Records, quindi sì, probabilmente un'etichetta musicale, che quindi insomma fa un po' diciamo da contenitore, per così dire, di vari artisti e varie musiche. E infatti la loro descrizione è Independent Label, che cerca di connettere i poteri di produttori locali di dub, anzi aspiranti tali, in un unico network. Quindi per quello si chiama Micelic Records, perché fa riferimento ai funghi, i quali, come ormai dovreste sapere, anche se avete ascoltato la scorsa puntata, formano dei network, appunto delle reti incredibili sottoterra. Vi ricordate appunto settimana scorsa abbiamo parlato del World Wide Web. Bene, allora, quindi sentirete altre canzoni loro in realtà durante questa puntata, magari a volte me le metto come sottofondo, ora vediamo un po'. Comunque, direi quindi di iniziare con la prima canzone di oggi, che è, non vi dico niente per ora, è Mother Nature's Son dei Beatles. Beh, questa probabilmente è già conosciuta. Veramente, veramente bellina. Io, vabbè, ho sempre amato i Beatles, perciò direi che giocavo in casa in questo caso. Allora, Mother Nature's Son, quindi il figlio di madre natura, dell'album The Beatles, appunto del 68. Forse sicuramente non è tra le loro canzoni più famose, ma insomma, comunque molto molto piacevole. E il testo è molto carino perché... appunto è lui che è un ragazzo, così un semplice ragazzo, anche povero, a country boy, quindi un ragazzo di campagna, che però fin da subito dice di essere il figlio di madre natura e quindi insomma sta tutto il giorno si racconta all'interno di elementi naturali, quindi o disteso sul prato o seduto accanto a un ruscello, e tra l'altro quando è seduto accanto al ruscello ascolta il rumore che fa l'acqua che passa e poi canta la canzone della natura, quindi si presuppone insomma la canzone anche del ruscello che scorre, che è questa semplice canzone, dice questa proprio. Quindi vabbè, ora i Beatles hanno sempre spesso nelle loro canzoni uno stile molto semplice e pulito, infatti anche in questo caso, e quindi appunto dice mi trovate in un campo di erba, in un prato, e cantando una canzone lazy song. Anche lui canta le lazy song e poi du du du da da da yeah, evviva, insomma molto molto carina questa. Andiamo un po' su altre sonorità in questo momento. Non avevo scelto un ordine per oggi, quindi me lo sto inventando adesso in base a come mi gira. Quindi appunto andiamo su completamente altre sonorità e altri luoghi, in particolare siamo in Italia, questi sono i Matti delle Giuncaglie insieme a Bobo Rondelli, Vado a stare in campagna. Stare in campagna, perlomeno gallo canta, in città nessuno fischia, no, nessuno no, la mascherina me la metto a spaventare le galline, e Zorro faccio le rapine, e un pizzimone mi farò. Sulla macca è la mia casa, e nel campo la mia cosa, una mosca ci si posa, vola verso la città. Ma che non è avuto tutto il vino? Ma a casa tua danno le galline, madonna, ma no! Vado a stare in campagna, lo diceva anche mia nonna, mamma mia che gente brutta, c'è un passeggio in città, e come buona l'insalata, il contadino la zappata, vino dalla damigiana, in tre giorni tiro. La misura stabilita, per osservarla distanziata, dal somaro è definita, conveniente rispettare. Va a stare in campagna, lo saluto ci guadagna, lo diceva che mia nonna, che un tamari mai di nulla. Ci guadagna, lo diceva che mia nonna, che non ti mali mai di nulla. Vado a stare in campagna, vado a stare in campagna, vado a stare in campagna, vado a stare in campagna, vado a stare in campagna, vado a stare in campagna, vado a stare in campagna, vado a stare in campagna. Mascherina su, mascherina giù, mascherina giù. Mascherina su, mascherina giù, mascherina tu, mascherina su, mascherina giù, mascherina tu, mascherina su, mascherina giù, mascherina tu, mascherina su, mascherina giù, mascherina tu, mascherina tu, mascherina tu, mascherina tu, mascherina tu, You want the dirt, I give you the dirt. I am the dirt that you live on the earth. You want it dirty, I give you the word. I gave you the world, I make it work. I make it work, work, work. I got the worms working under my skirt. I'm what you live on, I'm what it's worth. I am the earth, I give you the dirt. Dirty talk. get on the ground. My body's so porous, my body's so round. Wanna talk dirty, I'll give you the sound. Give me the roots, I'll give you the mound. Feed me your feces, we need to hustle. Clean up my beaches, show me your muscles. I'll give you crabs, I'll give you turtles. Build me a baby, I'm filled and I'm fertile. Dirty talk. You want the dirt? Feeling the clay in the sand up my shirt? Slip in my silk, I'll give you a squirt. You wanna eat it? You need my dirt. Potassium, nitrogen, enzymes, vitamins. Spread your seeds, I invite them in. Giving you what you need time and time again. I got minerals, fungi, H2O, bacteria, carbon, nematodes. If you wanna grow, you gotta get a hoe. Go work the land, that's a hand job, bro. Throw your organics all over my body. I make it hot, you're welcome to watch me. I break it down, I mix it all up. And then when I'm done, you can grow some new stuff. Lick it up, that plant sweat. I'm sequestering that carbon. I come alive when you get me wet. There's an orgy in your garden. I like variety, so stop that monocropping. Lift up that concrete and watch my flowers popping. The dirt that I've been turning is a cycle, death and birth. And I'm trying to get turned, cause I'm dirty, I'm the earth. You want the dirt? I'll give you the dirt. I am the dirt that you live on the earth. You want it dirty? I give you the word. I gave you the world. I make it work. I make it work, work, work. I got the worms working under my skirt. I'm what you live on. I'm what it's worth. I am the earth. I give you the dirt. Che dire, che dire, un po' mood diversi queste due canzoni in realtà. Vabbè, quindi la prima, vabbè, ve l'avevo già detto, erano appunto i Matti e le Giuncaie con Bobo Rondelli. E voglio andare in tornare in campagna, scusate com'era, e vado a stare, sì, vabbè, c'ero quasi. E vabbè, super super carina con tutti tra l'altro i suoni della campagna appunto dietro, in sottofondo, veramente veramente carina. E probabilmente la conoscevate già. Invece ora vi avevo messo quest'altra, appunto era un po' un altro mood di questo genio di donna, io non so bene come altro definirla. Lei si chiama Hila the Earth, oppure Hila, non so bene come si pronunci, la quale è una, appunto, a parte essere un genio, e andatevi a vedere anche i video, sono fantastici, è un'educatrice ambientale e animatrice. Fa musica, come avete sentito, e video, proprio a proposito di questa sua passione, ovvero l'ecologia e, vabbè, robe simili. E, fa tante, tante canzoni, spesso corte magari. Questa qui si chiamava Dirty Talk, quella che avete appena sentito, quindi Discorsi Sporchi, un nome bellissimo, ma proprio poetico a dir poco, in cui se siete riusciti a acchiappare un po' di parole, un po' di frasi, parlava della terra, in particolare lei in quel momento, insomma, era impersonifica la terra, il nostro pianeta, e dice che lei è quella sudicia, nel senso buono però ovviamente, perché è quella fertile, quella che ha dentro tantissimi nutrienti e ne cita un po' l'acqua, insomma un sacco di roba, un sacco di vita all'interno, i nematodi, i funghi, e li cita tutti, e è quella che ci dà da mangiare. Se vogliamo mangiare, bisogna mettersi a zappare, c'è poco da fare. E, no, veramente veramente stupenda. E no, veramente il video poi è fantastico, veramente carina. Quindi Dirty Talk, perché è quello che noi, almeno io la interpreto così, quello che noi spesso chiamiamo sporco, in realtà è qualcosa da cui può nascere altra vita. Quindi classicamente magari i residui della cucina, no? Gli scarti, o il cibo da buttare, oppure, ma anche solo, ora vabbè, magari deformazione professionale, ma mi vengono in mente gli scarti di potatura, anche quelli in realtà messi a compostare o abbandonati in un campo che sia, si decompongono e fanno altra vita. E ugualmente la cacca di tutti gli animali, noi compresi, ovviamente è fertilizzante, c'è poco da fare. Quindi insomma, molto molto carina. Di lei oggi sentirete altre canzoni, ma perché, come avete capito, mi piace. Ma prima andrei su un'altra dei The Birds, perché parla sempre di terra, del nostro pianeta, e quindi totalmente un altro mood, ma tanto oggi, come avete visto, come avete sentito, si passa un po' così di palo in frasca a riguardo, e quindi questa è Hungry Planet. they will hurt. Take a lot of space. They needed bombs and tungsten. Oh, and I too. See that clown and that dog in that blue. A lot of me riding too. Gotta save the world. Someone else may wanna use it. So far we've seen this planet's rape, how we've abused it. You gotta save the world. Russians have the biggest shell. There are fingers everywhere. Peccato, peccato perché era molto molto molto piacevole, perciò è un grande peccato che si sia interrotta questa canzone, mannaggina a lei. Come mai questa cosa succede? Chi lo sa? Vabbè, sì, grande peccato. Allora, intanto noi, niente, come sempre in questi casi ci dobbiamo arrabattare. Per cui, in attesa che questo simpaticissimo computer si riprenda e che smetta di far interrompere la musica così di sua spontanea iniziativa e scellerata, aggiungerei, iniziativa, io vi devo per forza intrattenere con la mia voce. Allora, una cosa che in realtà volevo fare, perché questa canzone, ripeto, che è molto bella e mi piaceva tanto, è leggervi il suo testo per intero, in realtà, perché è veramente, veramente interessante. Quindi ora speravo di riuscire a imbastire un sottofondo musicale, perché potrebbe essere un po' noioso altrimenti. Vediamo se piano piano, molto piano piano, scusate, serve un pochino di pazienza in questi casi. Allora, questa comunque, perché non mi ha detto in tutto ciò, questo era Save the World di George Harrison, quindi un po' in realtà sulla stessa onda di quella che abbiamo sentito prima, ovvero Hungry Planet dei The Birds. Quindi gli anni anche sono simili, perché appunto quella dei The Birds era del 70, mi pare, questa qui invece dell'81, insomma, diciamo simili, ecco, non proprio uguali, comunque ci siamo. E niente, ho difficoltà a mettere un sottofondo mentre parlo, ci si poteva aspettare. Allora, appunto, vorrei andare a leggervi il testo di questa qui, perché è veramente incazzato questo testo, nonostante in realtà, scusatemi, sentite? Eccoci. Nonostante questa musichetta super friendly, in realtà il testo è mega, mega incazzato. Quindi, prima frase, dobbiamo salvare il mondo, cioè non c'è cazzi. Qualcun altro potrebbe volerlo usare. Finora abbiamo visto lo stupro di questo pianeta, come ne abbiamo abusato. Dobbiamo salvare il mondo, quindi ripete. I russi hanno la quota maggiore con le loro lunghe dita ovunque e ora hanno bombe nello spazio con raggi laser e scorie atomiche. Beh, qui diciamo che è discutibile questa frase, però cioè vera, ma diciamo non era solo quello il problema, né al tempo né adesso ovviamente. E poi foresta pluviale tagliata per ricavarne asciugamani di carta, anzi fazzoletti di carta, scusate, correggo la traduzione. Ogni ora se ne va un ettaro. I nostri uccelli e la nostra fauna selvatica sono stati tutti distrutti per mantenere occupati alcuni milionari. Dobbiamo salvare la balena. Greenpeace hanno provato a diffonderlo, ma i venditori di cibo per cani insistono invece ad arpionarle. Dobbiamo salvare il mondo, il consorzio degli armamenti ci vende il plutonio. Ora puoi creare la tua bomba ad H, la tua propria bomba ad H, proprio in cucina con tua madre. il nucleare che ti costa di più di qualsiasi cosa tu abbia mai conosciuto prima, la risposta... No, scusate, qui la traduzione mi sa che gli è venuta male. la risposta di uno scemo a un bisogno, quindi a un bisogno non in realtà necessario, ha bisogno del cancro, della morte, la distruzione, l'avidità. E poi ribadisce: dobbiamo salvare il mondo, i figli di qualcuno potrebbero averne bisogno. Finora abbiamo visto il grande business dell'estinzione. Dobbiamo salvare il mondo, siamo alla mercé di così pochi, con cuori malvagi determinati a... determinati, appunto. Ridurre questo pianeta fino a essere un inferno. Ecco, trovano un acquirente e effettuano semplicemente una vendita semplice, una vendita facile, veloce. E poi dice, per concludere con una nota felice, come cercare di far galleggiare il cemento, è molto semplice. E poi alla fine dice: Dio vive nel tuo cuore, dobbiamo salvare il mondo, qualcun altro potrebbe volerlo usare, è ora che tu lo sappia quanto siamo arrivati vicini a perderlo. Dobbiamo salvare il mondo. Quindi quello che stavate ascoltando è un altro brano dei Miselic Records, quelli che appunto abbiamo sentito anche prima. E sì, allora sto ancora cercando di purtroppo imbastire qualcosa di musica, perché questo simpatico computer, come dicevo, non accenna a riprendersi. Quindi, vabbè, sfruttiamo il momento per ricordarvi il link del pad, e è direttawombat.vado.li, nel caso non ve lo foste segnato. Lo trovate comunque anche dal sito radiowombat.net, ora mi stavo intortando. Comunque sito che tra l'altro vi consiglio di spulciare, perché ci sono tutti i podcast di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, future, no, scherzo, future no. Quindi vi consiglio di andarlo a spulciare, e per ora non si accenna a riprendere questo computer, e quindi mi tocca lasciarvi un attimo nelle mani della bobina. Ci sentiamo fra pochissimo. Ed eccomi qua, ci riproviamo a ripartire. Sono veramente, veramente desolata per questi problemi maledettamente tecnici, schifosamente brutti. Ripartiamo allora dalla canzone che purtroppo si era interrotta a metà. Questa è Save the World, George Harrison. We gotta save the world. Someone else may wanna use it. So far we've seen this planet's rape out with abuse. We gotta save the world. Russians have the biggest share. There are fingers everywhere. But now they're bombs in outer space. With laser boobs and atomic waste. Rainforest chopped for paper towels. 1 acre gun in every house. All birds and wildlife all destroyed. Some millionaires employed. We gotta save the whales. Greenpeace, they've tried to defuse it. But dog food salesmen persist unkindly to harpoon. We gotta save the world. The armament consortium, they're selling us plutonium. Now you can make your own H-bomb right in the kitchen with your mom. Nuclear power that costs you more. Destruction, gotta save the world. Someone's children, they may need it. So far we've seen the big business of extinction lead it. Gotta save the world. Of so few, with evil hearts determined to reduce this planet into hell and find a buyer and make quick sale. To end upon a happy note, like trying to make concrete float, it's very simple knowing. We gotta save the world. Someone else may wanna use it. It's time you knew how close we come. We're gonna lose it. We gotta save. Thank you. up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. They charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Up a parking lot. E questa era Big Yellow Taxi, quindi siamo rimasti sempre negli anni 70, come eravamo anche prima, appunto, con Save the World, e molto carina anche questa. E tra l'altro ci terrei a leggervi il testo anche di questa qua, perché mi piaceva. Quindi, allora, questa è una canzone del 1970, forse ve l'avevo già detto, vabbè, e quindi ecco la traduzione, appunto, mi piaceva leggervela, mi sembrava carina. Hanno pavimentato il paradiso e costruito un parcheggio con un hotel rosa, una boutique e un locale alla moda. Non sembra sempre che non sai cosa hai fino a che non lo perdi? Hanno pavimentato il paradiso e costruito un parcheggio. Pazzesco, un parcheggio invece del paradiso. Mi suona familiare questa cosa, un attimino. Hanno preso tutti gli alberi, li hanno messi in un museo, in un museo degli alberi, scusate, e hanno fatto pagare alla gente un dollaro e mezzo solo per vederli. Quindi questa frase è veramente, veramente abbastanza iconica, secondo me, nel senso che, appunto, è un'ottima metafora per tante cose reali nel nostro mondo, purtroppo. Non sembra sempre che non sai che cos'hai finché non lo perdi. E hanno pavimentato il paradiso, vabbè, questo è il ritornello. E poi, ehi contadino, contadino, metti via il DDT, quindi, che è un diserbante, e preferisco che tu mi dia delle mele macchiate, ma lasciami gli uccelli, lasciami le api, per favore. Guarda i prossimi concerti rock, acquista i biglietti per i tuoi artisti preferiti, potrebbe anche piacerti. E quindi, insomma, è per dire, fai qualcosa di utile, fai qualcosa che ti piace e che fa star bene. E riparti il ritornello. E poi invece, ieri sera tardi ho sentito sbattere la porta a soffietto e un grosso taxi giallo ha portato via il mio vecchio. E poi, appunto, di nuovo il ritornello. Non sembra sempre che non sai che cosa hai fino a che non lo perdi. Hanno asfaltato il paradiso e per costruirci invece un parcheggio. Molto molto interessante come testo. Quello che ancora state sentendo in sottofondo è sempre Miscellaneous Records, come vi dicevo, appunto, l'avreste sentito ancora. Allora, quindi andrei alla prossima canzone, che è di El Buho, ma non la sto pronunciando alla fiorentina, è proprio scritto con l'H, giuro. E questa è Theiba. Questa era Seiba di El Buho, molto coinvolgente, mi piaceva parecchio. Ora, spero di non annoiarvi, ma anche il testo di questa canzone, cioè, scusate, il testo anche di questa canzone, ecco, l'ho detta meglio, è molto carino e quindi leggerei anche questo, se me lo permettete. Cammino sulle foglie, non ho fretta di arrivarci. Dalla giungla verde la mia libertà mi rovina, anzi è messa a rischio. Esseri che vagano tra le tazze, non so se è proprio una traduzione esatta, riesco a vedere le loro sagome, sento il suono del vento, cosa rende i rami, qui c'è una traduzione che io non so aiutare, quindi... cosa rende i rami, non sappiamo come. Vabbè, nel folto si aggirano, guarda la mia pelle, e quando cala la notte mi nascondo di nuovo. Gli esseri della giungla vengono a farci visita, voci dalla terra in cui vivono. Gli esseri della giungla vengono a prendersi cura, guardiani dell'acqua e della vita. Dalla cima della montagna il fiume vi bagna i piedi. L'aria fresca entra nel mio corpo e così io rinasco. Gli esseri della giungla vengono a farci visita, voci della terra in cui vivono. Gli esseri della giungla vengono a prendersi cura, guardiani dell'acqua e della vita. Quindi mi piaceva, allora abbiamo fatto un po' quindi un excursus in questa puntata in cui siamo partiti con che siamo partiti? Non me lo ricordo più. Vabbè, comunque con canzoni anche, sì, quella dei Beatles, ecco. Quindi che parlano della natura, tutta la prima parte in cui si parlava della natura, del nostro pianeta un po' in generale, ma anche da punti di vista diversi, appunto anche Save the World, che invece c'aveva un testo decisamente incazzato, lo definirei, quindi fino invece a cose un po' più metaforiche, appunto la pavimentazione del paradiso, quindi però sempre con come argomento la tutela del nostro pianeta, della nostra terra. Questa canzone invece che abbiamo appena sentito, di cui vi ho letto la traduzione un così, fatta un po' così del testo, che parla di un ambiente più specifico, quindi della giungla e degli esseri, gli spiriti, insomma, che stanno nella giungla, quindi un approccio diverso invece alla natura, più diciamo spirituale. E ora invece andrei a sentire altre tre canzoni, sicuramente ce la facciamo, che hanno invece un approccio molto diverso, in cui quindi elementi naturali, ora vedremo quali, vengono presi un po' come simboli, però per appunto una simbologia che con la natura c'entra, è giusto, sinceramente, però che così anche nelle altre puntate di Chiacchiere Melodiche ci andavano sempre a finire un po' di canzoni di questo tipo. Quindi andiamoci a sentire la prossima, che è Lemon Tree, Fool's Garden. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want. sun to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Chissà se mi ami oppure no, chi lo può dire? Chissà se un giorno anch'io saprò l'amor capire. Ma quando tu mi vuoi sfiorare con le tue mani, avvinta come l'edera, mi sento a te. Son qui tra le tue braccia ancora, avvinta come l'edera. Son qui, respiro il tuo respiro, son l'edera legata. Questa era L'Edera di Erika Mu, ovviamente non è una canzone sua, è una cover. E, tra l'altro L'Edera originariamente un brano composto da Saverio Seracini e Vincenzo D'Acquisto, presentato nel 58 al Festival di Sanremo, stessa edizione della canzone Nel blu dipinto di blu, quindi ovviamente non vinse L'Edera ma vinse quest'altro, comunque cantata da Nilla Pizzi e Tonina Torrielli, e vabbè, è stata rifatta da tante altre persone, in questo caso da Erika Mu nel 2016. Quindi appunto qui, come vi dicevo, elementi naturali, in questo caso L'Edera, usato in modo molto così poetico, che c'entra poco ovviamente con davvero la pianta, se non per il fatto che l'edera è un arrampicante, quindi si avvinghia alle altre piante e quindi la usa come metafora nell'avvinghiarsi a una persona, quindi una grande canzone d'amore. Direi di mettere un penultimo brano, giusto così per rilassarsi. In realtà l'ho già messo un'altra volta questo su Nervature, ma vabbè, lo risentiamo perché in questo contesto è così, diciamo, è più pertinente. Questa è Cultivator di Linval Thompson. Me born as a marijuana cultivator. Can't stop me from smoking it. No way. Boy, yo, yo, yo. Really and truly. Smoke it every time to make me feel so nice. Insomma, facciamo la traduzione? No, direi che non c'è bisogno. Direi che non c'è bisogno. L'unica cosa è però, io direi, perché non è per forza così scontato, è che bene fumarla, ma se a uno piace anche coltivarla, come questa canzone dice, tanto meglio. Io sono qui apposta per dirvi che le piante sono belle da coltivare, perciò se ve le volete fumare va benissimo lo stesso, ma coltiviamocele anche per chi può, ovviamente. E quindi questa era Cultivator di Linval Thompson. Allora, io sono qui, direi, a salutarvi, ma prima di questo vi farei una segnalazione, perché si tratta di proprio questa settimana, nella quale precisamente il 22, il 24 e il 25, quindi giovedì e poi sabato e domenica, c'è il Festival delle 72 Ore di Biodiversità. È un'iniziativa mega enorme, fanno un sacco di roba, un sacco di... aiuto, cosa sto guardando? Eccoci, un sacco di... iniziative, talk, laboratori, camminate, biciclettate, un sacco di roba interessante, perché fra tutte le varie robe ci sono, appunto, come dicevo, dei talk, alcuni che riguardano l'agricoltura, l'agrobiodiversità, quindi robe più legate alla coltivazione, ma poi anche robe legate, appunto, a tutto il mondo dei funghi, anche a come coltivarli, insomma, veramente veramente molto molto vario, molto ampio. Lo trovate tra l'altro da La Punta, quindi lapunta.org, che è, vabbè, il sito riunisce tutti gli eventi del mondo un po' più underground di Firenze e dintorni, perché c'è anche Livorno, Pisa, eventi anche un po' più lontani da noi. Quindi lo trovate lì, lapunta.org, 72 ore di biodiversità, il festival che c'è 22, 24 e 25 maggio. Bene, non dico altro, direi che ci possiamo salutare con ovviamente un ultimo pezzo finale. E io ho estrema voglia e quasi bisogno di ritirar fuori Heal the Earth, che abbiamo sentito più a inizio puntata. Ecco, prima non l'ho citato, però appunto la sua visione invece che riportava nella canzone Dirty Talk del nostro pianeta è una visione ancora diversa rispetto a quelle che abbiamo sentito nelle altre canzoni. Quindi, insomma, abbiamo fatto un po' questo excursus, diciamo, di come rappresentare e come parlare del nostro pianeta. Sentiamo quindi un'ultima sua canzone, questa Heal the Earth, con ABCs of Mushrooms. Io vi auguro a tutte e tutti una buona serata, ancora mi scuso per i problemi tecnici che ci sono stati, ma che siamo riuscite a superare, evviva, come ogni volta, anche se devo dire stavolta è stata dura. Ci risentiamo quindi lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre qui su Radio Wombat, con me, Addu, proprio su Nervature. Buona serata a tutte e tutti. ABCs of Mushrooms. A. Agaricus bisporus, most common on the shelf, known as white button. They got three gills, fried up with diced onions, white and brown. They start so teeny, let it grow, it's portobello. When it's young, it's cremini. Seen on veggie burgers, on a plate with linguine. Agaricus bisporus, grilled up with zucchini. On a salad or pizza, I will feed it to Rafiki. Pickled on a stick to garnish my mushroom martini. Here's a nerdy fact so you can learn a little more. The basidia bear two spores instead of the common four. Two spores for this mushroom tour de force. Agaricus bisporus, I will see you at the store. ABCs of mushrooms. B. Boletus edulis. King Bali, I wanna eat it. Mycorrhizal with the pine, wanna tap it when I see it. Tap that cap, tap, tap, check the density. Tastes nutty, it's umami, savory, and velvety. Porcini, Italiani, they call it little piglet. Thick stem, brown cap, spread its spores each time you pick it. When you meet this Bali, you'll notice some skill. Under the cap, it's spongy, tiny tubes, not gills. Communicates with trees, feeds the roots like a ritual. While feeding on the sugars, the benefits are mutual. In France, they say set. In England, penny bun. With Bali to sedulous. This foraging is very fun. ABCs of mushrooms. C. Cantharellus. Well, it's a shame. chanterelle on the forest floor where they tend to dwell. Yellow so golden with a fruity smell. Pick 'em, spread spores like you cast a spell. Oh chanterelle, you have false gills. Can't pull them off, they're like wrinkly skin. Forked, melted, the gills are decurrent. They run down the stem like a tree and a serpent. Cut that stem, the bottom is white. Study your stem, don't take home a look-alike. Listen to the poem and you can learn. Don't mistake chanterelles for jack-o'-lanterns. If you're unsure, look at the true gills. Look at the color, pick up new skills. Edible shrooms for you in the forest. Be safe when IDing, go out and forage.